Soundcheck, il suono della musica di Gegè Telesforo. Sei pronto? Prontissimo, come sempre. Eccoci qui dal Groove Master Studio per il soundcheck prova del suono di Radio 24. Buonasera a tutti voi in contatto da Gegè Telesforo e Francesco Tromba. Buonasera a tutti. Allora, il nostro indirizzo di posta elettronica, tanto per non perdere le buone abitudini, per fare tutte le vostre richieste sui brani in Airplay, e già ne sono arrivate diverse, è sempre lo stesso: soundcheck@radio24.it. E vi ricordo anche che nella nostra pagina all'interno del sito di Radio 24 c'è anche la possibilità, richiamando il podcast, di ascoltare le puntate. Sì, poi se volete anche scriverci su Facebook o su Twitter perché non riuscite a riconoscere, a rintracciare un brano, io rispondo sempre. Molto bene, ecco, lo voglio dire perché alcune lamentele sono arrivate. Magari ogni tanto le notifiche, visto che comunque gestisco tipo 6-7 pagine contemporaneamente, ogni tanto mi perdo le notifiche. Beh, ma non ce l'hanno con te, ce l'hanno proprio con Radio 24, perché all'interno del podcast la musica viene tagliata. Purtroppo io così. Non so, credo che dipenda da una cosa di accordi con la SIAE, diritti d'autore. Sì, penso. Fatto sta sì. Che intanto arrivano tutte le informazioni, per cui se uno poi vuole ascoltare la musica può andarla ad acquistare nei siti di riferimento o attraverso iTunes. Anche perché la musica che proponiamo è sempre degna di essere acquistata. Sì, e la maggior parte dei brani che noi proponiamo si trovano quasi solo ed esclusivamente utilizzando internet, perché il CD fisico molto spesso è quasi rintracciabile. Sì, in alcuni casi dovete anzi andare solo su Bandcamp, in alcuni casi non si trovano neanche su iTunes. Però noto con piacere che tu invece il CD di Lian Havas lo hai acquistato, te l'hanno regalato. Me l'hanno regalato, me l'ha regalato la mia ragazza. Addirittura, non è gelosa sì. Di questa tua passione per Lian Havas? È gelosissima, è il motivo per cui me l'ha regalato. Bene, allora io, tanto per buttare benzina sul fuoco, vorrei aprire questo appuntamento del soundcheck tornando ad ascoltare Lian Havas, ma con un brano che non abbiamo ancora ascoltato. E qual è? È qualcosa, forse dei brani presenti in questo album intitolato Blood, forse uno dei più pop, ma stiamo parlando di pop di grandissima classe. Sì, perché si può fare anche del pop di classe, non necessariamente le canzonette. L'importante è che si scriva della buona musica e ci sia sempre un gusto particolare nella realizzazione. Quello che ha Lian Havas con i suoi producer, il brano si intitola Tokyo, qui al soundcheck di Radio 24. Bravissima Lian Havas con Tokyo, da questo nuovo album intitolato Blood, passerei direttamente a un'altra signora della musica di oggi, un'eccellente batterista. L'abbiamo presentata sabato scorso, ma abbiamo ricevuto tantissime richieste per questo album intitolato The Mosaic Project, ovvero Love and Soul, l'amore e l'anima di questa eccellente batterista chiamata Terry Lynn Carrington. Un album realizzato da Terry Lynn Carrington, che non si cimenta soltanto dietro ai tamburi, ma si diverte a scrivere musica e soprattutto ad arrangiare un disco abbastanza complesso da questo punto di vista. Mi ricordo un po' l'esperienza fatta con Esperanza Spalding. C'è una particolarità, che però in questa produzione Terry Lynn Carrington coinvolge soltanto ottime ragazze. Dovresti anche chiamarla professoressa Carrington. Professoressa Carrington, certamente, docente di che cosa? Batteria e percussioni? Sì, alla Berkeley. Alla Berkeley, e vuoi vedere che alla Berkeley non hanno come docente una come Terry Lynn Carrington. Batterista versatile, ha suonato di tutto e continua a stupirci anche con questa produzione con la quale vuole strizzare l'occhio al mercato e forse alle classifiche, così come hanno fatto la giovane Speranza Spalding, ma anche Robert Glasper ultimamente. Alla fine bisogna venderli i dischi, no? E allora che cosa ascoltiamo di Terry Lynn Carrington? Un brano intitolato Best of the Best con la voce di Shanté Moore qui al Soundcheck di Radio 24. Some decisions, it's so hard. Don't we all know it too well? How the story goes when you're so low. I'd hope you'd find a way to stay. Soundcheck. Il suono della musica. Che melodia, ancora oggi modernissima. Pensa che questo è un brano che è stato realizzato nel 2007, il brano si intitola Twice, a opera di una band fantastica, Little Dragon. È la voce, quella della vocalist Yukimi Nagano. Questi signori, band svedese, come dicevo, hanno aperto una strada, un percorso, partendo proprio dalla Svezia, e sono riusciti in pochi anni a conquistare tutto il mondo con un'idea sonora particolare, si usa molto elettronica, però poi le melodie sono importantissime, le melodie sono sempre molto ben disegnate. Sì, anche i testi e la voce della vocalist Nagano sono veramente impressionanti, perché è capace di essere praticamente dolcissima ma anche super aggressiva. È vero, e aggressivi sono anche i videoclip che hanno realizzato, bellissime produzioni. Sì, sono partiti appunto con il video di Twice, che in realtà è un'animazione molto delicato. Sì, poi però nell'ultima parte della loro carriera sono passati, hanno avuto un'idea geniale secondo me, ovvero quello di serializzare questi video, quindi appunto il primo singolo dell'album diventa la prima puntata di un episodio di una serie TV, e così via, il secondo singolo diventerà il secondo episodio. Sono dei video abbastanza anche crudi e impressionanti. È vero, perché propongono sempre immagini con zombie, morti viventi, sì, rituali strani, stranissimi, magici. Allora, Little Dragon con Twice qui al Soundcheck di Radio 24, band che come dicevamo ha aperto una strada, un percorso che è stato seguito poi da Hayatos Keyote. Sì, ma tu sai perché si chiamano Little Dragon? Che cosa, avrà un tatuaggio la vocalist, la Nagano? No, era il suo soprannome, praticamente. Loro si sono incontrati quando avevano 16 anni, erano ancora al liceo, e quando si ritrovavano a cantare pezzi di ad esempio A Tribe Called Quest, tra un pezzo e l'altro c'era la vocalist che faceva dei suoni strani, tipo quasi come il lamento di un bambino, e da lì quindi Lidl, e poi Dragon, perché appunto lei ha origini giapponesi, quindi il simbolo del Giappone è il dragone, quindi Lidl Dragon è per questo motivo. E Napalm, vocalist di Hayatos Keyote, non ha mai nascosto la sua passione per questa band e per questa vocalist, e quest'anno si sono incontrate le due ragazze a Los Angeles. Il 15 luglio di quest'anno c'è stato questo grande evento, un bellissimo concerto aperto da Hayatos Keyote e poi il grande spettacolo di Little Dragon, che hanno, come dicevamo, seguito in tutto il mondo, quindi anche negli Stati Uniti spopolano, e dal suono di Little Dragon con la bellissima Twice, che ha aperto così il loro percorso musicale, a Fingerprints, uno dei brani più morbidi presenti in Choose Your Weapon, ultima fatica discografica per Hayatos Keyote con Napalm qui al Soundcheck di Radio 24. Broken memories, oh, they taunt me like a bird caged by score. Soundcheck. Yes. Il suono della musica. I give it all to you. I give my heart. I give my heart. Surrender. I give my love, my everything. I give my heart in sweet surrender. Classico del jazz come My One and Only Love. Io ricordo la versione bellissima di Johnny Hartman con John Coltrane, vi sto parlando quindi degli anni 60, ma questa invece è la voce di Jamison Ross, batterista della nuova generazione ma anche eccellente cantante. Jamison Ross, album di esordio per questo musicista che ha vinto la Thelonious Monk Competition a New York quanti anni fa, Francesco? Nel 2012. Come batterista. Sì. Ecco, però ha pensato bene, dovendo fare il suo primo disco, di cimentarsi anche con la vocalità e mi sembra ci riesca molto bene. Sì. Album di jazz contemporaneo, quindi come sempre la passione per lo swing, per il bebop, per l'improvvisazione, per le strutture tipiche del jazz, ma non deve mai mancare per i nuovi musicisti quel groove così importante oggi. Sì, poi lui comunque c'ha anche una voce molto soul, infatti questo pezzo sembra quasi come se lo stesse cantando Stevie Wonder con quell'approccio. È vero, My One and Only Love in versione contemporary per questo signore chiamato Jamison Ross, e quindi questa è un'anteprima del soundcheck di Radio 24 per voi, un album comunque prodotto l'anno scorso. Da Jamison Ross per chiudere questo appuntamento con il soundcheck, chiudere questo weekend e quindi ritrovarci sabato prossimo sempre a partire dalle 19:15, torniamo ad ascoltare e ad apprezzare la voce di questa giovane vocalista americana, Shantae Khan, con la partecipazione di Snarky Puppy, che hanno arrangiato questa sua composizione originale. Brano ritmicamente dispari ma che scorre con grandissima facilità, molto ben arrangiato e realizzato per quella che crediamo sarà una delle vocalist di questa stagione del nostro soundcheck. Sì, poi il testo è quasi un gioco vocale, diciamo. Onomatopeico, sì. Sì. Allora, il brano infatti si intitola Da Dan Da. Sì. Giusto? Ho sbagliato? Esatto. Bene, a tutti voi buona serata e buona settimana ricca di musica e di felicità, si può dire? Sì. Come dicevano un tempo i presentatori, no? Sempre felici. Sempre felici. Grazie a Francesco Tromba, a tutti voi buona settimana da Giorgia Telesforo.